Claudio. Hola, hola. Ciao Claudio. Ciao. Sto provando. Mami, tu sei? Ehi, stavo provando il microfono. Isso, tu come ecco sei? Lo so. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ora. Attenzione, canale 10, cambia. 1, 2, 3, prova. Attacca quello bello. Così, appena, appena, appena. Già c'è l'eco. Meno di prima. Se riesci a passare un po' la ripetizione va ancora meglio. No, aspetta, è il microfono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecco, così va bene. Va bene. Vero. Qua dalle mie parti sembra di sì. Ma lo tolgo, là, così va meglio. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, così va bene, dai, dai. Kappa, forte e chiaro. Questo è un microfono, Daniele, ho comprato, l'ho pagato l'euro. Sul sito della Midland c'erano delle offerte e l'abbiamo preso io, ho fatto della stazione, ne abbiamo preso due. E a te, a faccia già. Cosa? A faccia si è riferito l'eco. A bella Roma. Fai un passaggio più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo mi va bene. Aspetta che vi ascolti il culo. Eia. Attenzione, canale 10. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Così va bene, vero? Così sì, già. Se non tocchi niente, sì. La cosa, aspetta, ci metto a posto le cuffie. E chi è questo canalino? Daniele, avanti. Ehi, Adalighe, ci sono. Ehi, ma tu stai fischiando, no? Cosa? Non stavi fischiando tu. Già, devi aumentare un po', sì, quasi mezzo al QRM. Questo qui è l'apparecchio di 4 watt, 5 watt, dai. Attacca l'altro, che è molto meglio. Aspetta. Attenzione, Danielino. Un'altra cuba, già. Questo qua però è performante, dai. Cavolo, c'è l'apparecchio bello che usi i baracchinetti. Ma questo è un baracchino americano, dai, un Magnum. È il Magnum, quello 2000DX. E cavolo, sei finito da Santiago 3, 4, adesso 6, 8, applichi positivi. Questo è Fulvio, questo va bene. Se quando faccio il DS accendo questo qua, faccio un break, mi vado ad entrare subito. Se accendi gli altri, devi aspettare, cercare, ti sento, ma ti sento lo basso. Con questo qua vai alla grande. E si conferma. Perché qua ho tanto che arrivo veramente per le parti, però per gli altri arrivo veramente devo usare più di 4 watt, roba più seria. Sì, ma in città l'altro è lui, se ci metti 747 con l'altro va alla grande, ma non ce l'ho più, se no l'avrei attaccato, perché con 747 andava alla grande il Ruiz. Ma questo c'è ancora per la radio, perfetto. Capo, questo c'è un microfono amplificato nuovo. Nuovo di serie, dai, che hanno fatto un nuovo microfono. Già va bene, Danilo, già va bene. Così è quando parlo d'Alghero, mi sentono tutti, però gli altri, se non mettono un po' tempo, almeno ci arrivano. Io Alghero arrivo a Santiago 8. Io stesso, una cosa del genere, 6, 7, dipende dalle zone, 8. Dipende poi da dove si trovano, capito? Infatti, anche con che antenna stanno scendendo, perché ce n'è uno che modula da una zona con un antennino e non lo sento bene, dai, lo sento basso. E allora, poi qua Italy, cioè ovviamente confronto Italy risulta molto sotto. Abbassa appena il microfono, che ti sento troppo bu. Cavolo, vedi, aspetta. Guarda. guarda adesso, te l'ho messo un pelino più basso. Adesso sei ok, perfetto. Campo di rotometro, va bene, va bene. È troppo alto, si capisce ma male, capito? Invece così è proprio, la radio è proprio pulita, bella. C'è qualcuno che vuole entrare, avanti, non vuole entrare nessuno. Questa era una domanda, non era un'affermazione. Ogni tanto bisogna incitare le persone a entrare. E allora, grazie, chi vuole entrare, avanti, c'è posto per tutti. Va bene, va bene. Ma poi sta prendendo un po' di propagazione già. Oh, ma tu da lei sempre lasci a fare servizio ambulanza? E si conferma. A Osilo sì. No, sono anche lì. Dove sei? Sono anche lì, ma lì faccio protezione civile antincendio l'estate. Ah, è qua? Qua dove sono ora sono 118. 118 all'ospedale? No, 118 in associazione. Ah, no, pensavo che fosse entrato all'ospedale a lavorare. Magari, avevo gli anni richiesti per poter assegnare. Anche io sarei potuto entrare, se avessi avuto la patente C sarei entrato, perché all'inizio, quando hanno preso la gente, stavano prendendo da ogni associazione il più vecchio con la patente C. Siccome io ero il più anziano, però la patente C non ce l'avevo e quindi non sono potuto entrare. Ed è entrato con un altro mio collega che era lì. Adesso c'è anche il servizio ambulanza. Gava. No, volevano 5 anni assicurati un'associazione, capito? Io non ce li ho 5 anni assicurati. Ah, ecco, vabbè, farò diverse regole, dai. Vabbè, comunque, piano piano. E che associazione sei, Daniele? Con Alghero. Ah, Alghero Soccorso. Gava. E poi gioco in casa, c'ho anche qua la postazione, quindi, molte volte sono qua. Cioè tu l'ambulanza te la porti a casa? No, che c'ha la doppia sede, qua dove abito io ad Alghero, capito? Ah, ho capito. No, io l'ho mollato, il servizio ambulanza non è più facendo. Ho mollato. Piano piano, quando diventi grande, qualche cosa la devi lasciare. Non puoi fare più tutte le cose che faccio io, prima riempivo un po' di cose, non mi riconoscevo manco io. Adesso un po' di cose l'ho mollata, mi sto riposando. Adesso è venuta la fase di rilassarti un po'. Vabbè, ci vuole. Dopo che hai dato, ci vuole il relax, dopo tanto tempo. Con il riposo. Qua lo sto facendo per lavoro io. Ma se trovo di meglio. Vado, boh, finito con le ambulanze, basta. Io 17 anni ne ho fatto il servizio ambulanza, non ti dico altro, 17 anni. Ciao so. Un bel po', io boh, non lo so quanto tempo ci sono già. 13, 14 anni, 15 anni, comunque un bel. Poi adesso deciso, non c'è più, non vedo più l'ambulanza, niente. Ah, proprio mollato tutto. Ah, penso di sì, penso che le ambulanze le abbiano date a qualche altra associazione del CISO, perché non li vedo più, o hanno cambiato l'associazione e la sede, non lo so, però non ci sono più le macchine parcheggiate dove erano sempre prima, non ci sono più. E noi avevamo la Renault, bella, quella lì camminava pure. Avevamo furgone Renault, il centro di animazione, e poi avevamo Fiat anche. E vabbè, e poi ci avevamo Land Rover per fare l'antincendio. Cava, ma inciso, ma il militarizzato era, no? Cosa? Inciso, ma si faceva parte all'Ordine di Malta? Certo, sì. Noi praticamente la revisione dei mesi la facevamo a Roma, ci mandavano la revisione dei mesi da Roma, l'assicurazione di tutto l'equipaggio ce la faceva a Roma, era un corpo paramilitare. Paramilitare era, è vero. Ma poi, vabbè, è morto tutto, è morto Giancarlo, che tante ne dicevano, e poi era l'unico che si impegnava veramente. poi l'ho preso in mano altre persone e non è andato avanti. E come tutte le cose, poi nessuno se ne prende a carico. E anche che è un bel impegno, non è così semplice. E Giancarlo si dava da fare, andava alle riunioni, tutte queste cose qua, si dava da fare. I mezzi si erano sempre a posto, sempre tra gli andati, sempre invece a posto. Non ne gravava di guasti, di cose, non ne aveva i mezzi rossi, erano tutti perfetti. Gara. Va bene. E come entravi, disinfettavi tutto, sempre la macchina sempre pulita a posto, cambiavamo lenzuola, tutto, non è che muri di mezzo silenzio che muri a un altro, no? Noi le cambiavamo sempre. E all'epoca sì, c'erano le lenzuola, adesso invece posto le lenzuola c'è il telino in gomma. Ah, così è. Vabbè, io adesso sono un po' fuori, sono un po' fuori dal giro. E adesso hanno cambiato tante cose, anche il massaggio cardiaco è diverso. Si fanno 30 massaggi di insufflazione, poi mi hanno detto che l'insufflazione non è più obbligatorio farlo. No, ma c'è sempre quello già, 32 c'è sempre. E io invece un amico mi ha detto, no, le insufflazioni adesso se vuoi non le fai, è strano, prima le facevi, adesso no, prima erano 15, adesso sono 30, e se salvava prima la persona si può salvare anche adesso facendo 15 massaggi. Il procedimento è rimasto lo stesso, però le insufflazioni sono sempre. Dici no, guai, e come fai se no? Allora, a me mi avevano insegnato, quando sono proprio entrato la prima volta, alla Croce Blu vecchia, non quella di adesso, quella che c'era in via Dompiga, mi avevano insegnato che il massaggio cardiaco, siccome doveva passare un secondo da un massaggio all'altro, dovevi contare 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 per avere il ritmo giusto. Ehi, anche così. Fai 1, 2, o fai 1001, 1002, siamo lì. Tra un massaggio e l'altro, sto dicendo, dovevi mettere sempre il numero, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, per far passare il giusto tempo, per dare il tempo giusto. E vabbè, tante cose sono cambiate adesso, via. Ma io se mi trovo, per dire, in un momento di che qualcuno ha bisogno, già mi arrangio a fare tutto. Vabbè che una volta mi è successo che mi sono fermato perché questo si stava per sbattere al muro, cazzo, prima si è sbattuto con una macchina, poi si stava per sbattere al muro dei morboni, c'era presente che sono i morboni in fronte a casa. E questo qua io ho pensato che stesse male, mi sono avvicinato, ero col carro, mi sono avvicinato alla macchina e praticamente sono arrivati i vigili urbani, subito mi hanno detto, lei che cosa vuole? Che cosa le serve? A me ho detto, non mi serve nulla, a lei che cosa le serve? Io faccio servizio ambulanza, mi sono fermato perché ho pensato che magari avesse bisogno. Ah, mi scusi allora, vabbè, comunque, già prepotenti stavano facendo, hai capito? Senza motivo. Cavolo. No, può essere anche gentile. Sì, ma poi questo signore era un po' sbronzo, però era la festa del nipote, era il compleanno del nipote, poi è arrivato il figlio, gli volevano prendere la patente, è arrivato il figlio e gli ha detto guarda mio padre non beve mai, oggi è perché era la festa del nipote, magari ha bevuto, siccome a stemio gli ha fatto male quello, capito? Niente, non c'è stato un verso, scenda dalla macchina, immediatamente tolga le chiavi, scenda dalla macchina, ma è un delinquente come te ne ho già detto. Sì, su, non si è fatto nulla. No, non si è fatto nulla, perché era un po' sbronzetto, questo qui addirittura l'ha anche suonato con la macchina e si è sbattuto lo stesso. E poi lui ha preso il controllo, come si è sbattuto e sta sbattendosi contro il muro, meno male ha trovato il marciapiede e l'ha bloccato, che se no si chiude sopra il muro. Meno male. Oh Giulia. Vabbè, comunque. Per dirti, no, come sono fatti, a volte non fa manco a fermarti e a dare una mano, perché ti dico, vi faccio vedere la tessera, questo e quell'altro, io tessera non la giù più, io l'ho consegnato, quando me ne sono andato ho consegnato il tesserino, divisa, tutto. Cava, cava. Una volta che hai smesso, però... Uno che ha BLS, BLSC, trauma, primo soccorso, tutti quanti i corsi, anche se non li ho rinnovati, però li ho sempre fatti. Eh sì, e va bene, va bene. Cosa, Marì? Ho detto, già va bene. Ho capito i bambini, anche quali bambini? Io ho una signorina e un giovanotto. Bambini, no. Ho capito i bambini. Adesso già va bene. Cappa cappa. Oh, yeah. E lì come si sta in quella zona, Dani? Ah, non posso lamentare, sta bene qua. Di lusso. Ma tu sei al centro oppure in campagna? No, diciamo alla fine del corso. Alla fine del corso, la campagna no. Ah, vabbè, quindi sì. Deve essere dentro il paese. Sì, quello sì. Già, posso muovermi dappertutto anche senza macchina, per dire. Cappa cappa, vabbè. Dai. Come mai hai deciso di andare in quella zona? Che ho fatto famiglia qua, per te fatti, capito? Ho capito. Vabbè. Avevi la casa a Sassari, te ne potevi andare lì. Non faceva lì già, perché lei lavora qua e non faceva. La foto di migliorare peggioravo. Beh, se ci sono problemi così, è fatto bene, dai. Almeno se della zona dove la vuoi. Vabbè, dai. Sono scelte e c'è sempre che sei bene. Ah sì, guarda, no. Lo rifai altre mille volte, guarda. Poi lì puoi andare a Fughi, puoi andare a tutte le parti, così. Qua c'è la bizzarristi, quello che vuoi puoi fare. A voglia. Dove sei tu? A Ittiri? Esatto. Ah, allora c'è tutto lì. Io a Ittiri sono venuto diverse volte perché accompagnavo il mio suocero e ci aveva praticamente un neo che gli era diventato tutto rosso attorno. L'accompagnavo per fare le visite e cose, poi gliel'hanno tolto perché era un tumore, capito? Chiaro, qua all'ospedale. Sì, ma gliel'hanno fatto ambulatoriamente, gliel'hanno fatto lì. Ambulatoriamente gliel'hanno fatto. Ehi, ormai qua è rimasto solo ambulatori, l'ospedale non c'è più niente. Solo il nome gli è rimasto, boh. Non c'è più nulla lì, manco soccorso santo c'è più. No. Guardi, l'ospedale è rimasto solo il nome, il resto è tutto ambulatori. Oi, mi hanno già offerto in bocca di cose, io vabbè sono rimasto ai tempi, sarò catapultato tutto ma in peggio però, perché molta gente la mandavano lì, quando non c'era posto a Sassari la mandavano lì a fare queste cose, era una specializzazione in queste cose, in legge, toglievano legge, tutte queste cose qua. Però non so magari se c'è, però poi è rimasta cardiologia, il centro preliesi, limpi, neopsichiatria infantile e poi la radiologia e poi non solo c'è rimasto. Oh, yeah. Anche adesso anche Alghero stanno rifacendo pronto soccorso, tutto casino. stanno ripetendo tutto quanto, mancavano anche i dottori a pronto soccorso, un casino, boh. Ma se uno si ammala è fottito. Esatto, è così, anche lì c'è la maretta, solo lì. La Sarte, Alghero, un po' in tutto, la Sardegna, Tu li metti, fai, disfa, e stanno facendo casino, boh. Una volta io ultimamente sono andato perché si era fatto male lo zio della mia ex moglie, ci ha telefonato in campagna perché aveva da solo, si è avuto un colpo di mazza togliendo questo ferro che era infilato nel terreno, ha dato un colpo di mazza e si è presa la gamba, gli si è fatta la gamba come un palloncino e l'abbiamo portato lì. Oh, c'era da Farrelli le osse con una osse con una professionale, con un'infermiera professionale. L'infermiera professionale ha detto: tu queste cose non le devi fare, noi siamo professionali, tu non sei nessuno. Boh, davanti a tutti, qua. Un casino niente. Già ci sono ancora personaggi da gente. Vabbè, ognuno deve fare il suo compito e basta. Ho capito, ma cioè ci metti davanti agli altri a prendere la voce, è un po' brutto, dai. C'erano tutti i pazienti lì aspettando, gente sulle lettighe aspettando per farli entrare dentro, un casino. Ma tua mamma mia, io che ce l'andavo, prima che sa farla le roghe. Ma così va bene, avanti alle persone, no? Devi la parte di parlare tu. Oh Iulia, sempre peggio Ma adesso per le urgenze non si va più sotto dove si portavano prima, si va dietro. No, che stai parlando già? Allora, prima quando tu arrivavi a pronto soccorso ti fermavi davanti e adesso però mi pare che è dalla parte di dietro che caricano i pazienti. Ma davvero stai dicendo? No, a Sassari. No, sempre lì, come entri c'è la camera calda che ci sono quelle serrande di plastica. E lo scarichi lì. Boh, perché una volta sono andato a portare la buon'anima di Natalino perché ci aveva mi stava dando fastidio il cassetto, le cose, e l'ho portato e mi hanno fatto andare dietro, la guardia giurata mi ha fatto andare dietro con la macchina, scaricarlo da dietro. Dovete avere ingresso del pronto soccorso, mi dice. Dove prima c'era l'entrata a vice, ce l'è presente, che poi dall'altra parte si va ai reparti. Lì, mi hanno fatto fermare lì, che dove caricano, visto le ambulanze, dove li caricano la corrente, quando gli attaccano la corrente per caricare l'ambulanza. Lì, proprio a fianco, mi hanno fatto scaricare da lì. Ah, sì, dipende, lì è... che si alza la mattina, capito? Però anche se non fai in macchina lo faccio vedere sempre lì dove caricano le ambulanze. Praticamente ha fatto andare lì il tempo di caricarlo sulla sedia a rotelle e poi mi ha fatto andare fuori. Gianni, mettiamo un altro messaggio, te l'ha mandato il telefono Bruno? No, ma non siete stati d'accordo che è trovato in radio e cose, poi non me l'ha mandato. Io stamattina l'Alghero l'ho ritirato, ce l'ho a casa, un poco fa l'ho provato, è perfetto. 4 watt ne dà una cinquantina, e con 8 watt ne dà un'ottantina, va bene, è nuovo. E niente, no, non mi ha cercato, vedo un po'. Se riesci a contattarlo di chiamarmi, se lo vuole, se no me lo tengo, cosa mi dica? E se no lo dai a me. Sì, già, io l'ho preso, perché l'ho matto che stava cercando già dall'altra volta, capito? E quindi l'ho preso, può sempre servire un vignarettino per la macchina, a me non serve. Se serve a lui lo diamo a lui, non so, io non ce l'ho il, se fosse stata la buona anima di Torre l'avrei ritracciato subito, ma non so a chi chiede il numero suo, capito? Ciao Daniele. Aspetta, ciao Daniele, ben sentito, buonasera. Aia. Non è mica, ho recuperato un linealettino per la macchina Bruno, così ce lo mette. Però l'alghero stamattina da mamma e sono passato a casa un amico che ogni tanto le recupero qualcosa, c'è un sacco di cosette, di microfono e ballevaglia. E quindi le odiamo, allora cresce la chissà, chi se buco ogni volta e no, non si riesce a sentirlo a questo dalla macchina. Eh sì, almeno così si mette in riga anche lui, diciamo, che non è un problema. Beh, in macchina ci vuole sempre un aiutino, a meno che non c'è una radio come Gianni, che è un magnum, siamo una radio che dà 25-30 watt, allora va bene. Ma quando c'è in macchina una radio che dà 5 watt, 4 watt, non andi a lungo. Soprattutto quando sei così in città, capito? Perciò un aiutino, 40 watt, così diciamo una radio che dà 4 watt, una quarantina di watt in più. Sono sempre buoni. Allora, io il numero di Bruno non ne ho e non mi ha chiamato, quindi non so come rintracciarlo nemmeno io. E purtroppo mi ha detto che entrava, stasera, quindi già entra, poi e lo dici. Sì, vabbè, se entra le do il numero mio e si abbia le luci, non ho niente da nascondere io, le do il numero mio e il telefono e dico di chiamarmi, capito? Così ci vediamo, glielo do, insomma, se ha difficoltà glielo piatto io, non c'è problemi, e via. Con la speranza che non abbia l'attacco a cin di sigari lui, perché già sai meglio di me, no? I linearetti vogliono attaccarti dalla batteria, quindi se c'è a fare l'impianto bisogna fare una cosa fatta bene, se fa fare una cagata e bruciarlo non gliel'ho. Io attacco a cin di sigari non l'ho mai usato, mai, per fare queste cose. Per caricare il telefono e basta l'uso, ma per il resto no, non ho mai usato, sempre l'attacco con fili grossi, di quelli arancioni grossi che usano per fare gli impianti stereo professionali. Quindi lì ho preso da punti che i fili per attaccare il baracchino. Appunto, vuole fatto bene l'impianto, soprattutto quando c'è il linealetto così, perché ho provato sotto amperometro, riferrafa, questo linealetto assorbe 10 ampere, quindi non è che lo vuoi attaccare la CD sigari, no? Più la radio, sono sempre quei 15 ampere che ti porta via, non va bene, bisogna attaccarlo. Per funzionare bene bisogna fare l'impianto dalla batteria, quindi spero che lui ci abbia il cavo diretto dalla batteria, allora va bene, se no bisogna passare il cavo dalla batteria e fare una cosa fatta bene, capito? Non lo so, vabbè, se entra in radio ci parlo e ci mettiamo d'accordo e glielo do. Ma l'ha dato, non ha voluto, ma qui solo mai detto quando me lo paghi, ma io non li voglio rubare di più, se le va bene va bene, se no la prossima volta andrà a trovare tutte le settimane l'alghero glielo riporto, capito? Ah, cosa? Già te lo prende, già entra Bruno. Io potrei dirlo a Aldo, ma non lo so, mi sembrava male il numero, non lo so. Io non è una cosa così urgente, no, se voglio ce lo recupero, perché chiamo a Carla, figlia di Tore, me lo dà il numero, non è un problema. Ma non voglio catturbare la cosa, non è una cosa così urgente, no? Quando lo sento in radio, se entra, glielo dico che ce l'ho. Nel caso ti dovesse chiamare, io ti ho mandato un messaggio, mi passi il numero tu, se non sento in radio già glielo chiedo io. Va bene, ok, dai. Ci sentiamo tra un attimino che stavo facendo cosa con quella radio accesa, mi sto ascoltando. Vai Daniele. Ehi acca, già siamo qua, non c'è problema. Perfetto. Però vabbè, ho trovato con un angelino da casa sua, da casa sua ho sentito sino all'ingresso di chi? Lì sono come Lulio. A chi va Angelino di Alghero? Eia. Ma perché ce l'ha in macchina? No, lui era a casa sua, no, che abbiamo piantato l'antenna un po' di mesi fa. E io c'avevo il mio in macchina e mi stavo provando a vedere fin dove arrivava. Oh, sino al cartello dell'ingresso di Itrina ci siamo sentiti. E lui c'ha un palo che era un ex palo della luce, mi pare, usa quel palo lì per mettere le antenne, l'altro l'avevamo messa lì, l'avevo vista anche io quando l'avevo appiastato. Già l'ho vista, da per stazione l'ultima antenna. Niente, io stavo usando il coso, il superstar, come dai nome. Liscio, trovo la PLC1000, la base magnetica e basta. No, io ho un'antenna che è performante. Ho venduto la Turbo 2001 che era troppo grande, che con la magnetica mi si è staccata, mi ha fatto dare la macchina, me l'ha ammaccata. Quindi me l'ho venduta e praticamente mi sono preso un'antenna olandese e praticamente dall'Olanda l'abbiamo ordinata e un'antenna veramente buona perché mi sento tutte le parti, è corta, leggera, lo stilo fino, io tanto non devo mettere molti piatti, basta che me ne tenga 30, mi arrivate e mi va bene, ma quella mettere molti di più, ma è un'antenna che c'ha la base trasparente, si vede la carica, è bellissima. Cava, è infatti alta già? 1,60. 1,60, vabbè, la 2001 è più alta, la PLC mi sembra che sia la 1,75 mi sembra. Fai 1,80, fai 1,80, è come la Turbo 2001 che è 1,80. Ma lo sai cosa c'è? Sono andato al Ghero una volta, a casa mi si è staccata la magnetica, mi si è faranda e non mi potevo manco fermare perché c'erano le macchine dietro, un casino, la girando, ho tutto spaccato la magnetica, mi ha fatto dare la macchina, insomma lascia perdere, ha strisciato tutta la cappotta e poi mi ha fatto la maccatura. Sì, cavolo, no, io ce l'ho grande la base magnetica, non è piccola, ma ce l'ho bella grande. E la mia è da 120, non lo so, ma no, questa qua di questa antenna è piccolina, la base magnetica mi attacca 3 volte di più di quella della leva. Che cavolo, già va bene allora, già va bene, perché se no, veramente, se c'è il vento o cosa del genere, la perdi, si stacca. E la Foggio. Mia Pompogno. Avanti, chi è? Io, ciao Gianni, ciao Daniele. Ciao Pompuglio, ben sentito, dai. Avanti, che ci dici di bello? A Pallicollo, da Cervicare, dove vedi mica. E sono a casa, non sono neanche uscito, figurati tu. Antonello, sei gruppo di Luca, c'hai sottofondo voci di tutto di più, non sei gruppo di Luca. Daniele, a te come arrivo? No, ma è mai sottofondo, è un passaggio più lungo, Antonello. Aspetta, che aspetto il televisore, adesso meglio va. Adesso sì, Antonè. Adesso se senti qua più il televisore di te. Già lo so, c'è la camera a casa. Piazzato a muro, figurati. Ok, adesso già va meglio. E questo aumento la cos'è? Come quello dell'alimentatore. Già lo sai, quello dell'alimentatore che ho fatto io. K. Vediamo un po', Daniele, ripeti, come ci arriva Pompuglio lì? Allora, Pompuglio arriva bello forte, 9.10, già va bene. Sì, poi sottofondo c'è, già la radio è comprensibile. Non problema, già si capisce che è una ventola quella. E adesso sì, ma poco fa non si ricompri di Arunda, aveva un televisore acceso, se non abbiamo un televisore di lui. Ah, vabbè. Sì, lui è in una zona buona, in alto, è normale, dai. Io sento a tutti, sento i russi, anche i russi, grazie. L'Ucraina sento. No, non ho capito come fanno a modulare con le bombe addosso. Ehi, vabbè. Ma che dire, io sono qua 5 minuti, mi assento. Ehi, vabbè, allora. Cosa vuoi dire? Gianni, avanti, Daniele. Ehi, Gianni, va bene, anch'io mi vado. No, io stasera sono fuori a cena, quindi devo portare il carro e poi devo andare. Dai, per ogni tanto a cena. Già va bene, ogni tanto un po' di svago ci vuole. E infatti, ma normale. Gava, gava, gava, gava, riprendi a te. Allora, va bene andare a cena, me lo esce. E se tu vanno, io invece... Purtroppo devo rimanere qui, non posso farci niente. E vuole fare compagnia a Simona, che non sta bene. No, adesso domani mattina, speriamo bene. Vediamo se riusciamo a sturarla. E cosa c'ha, Antone? C'ha, come si dice, il colon irritabile, quindi in pratica c'ha la stitichezza, capito? Soffre molto di stitichezza. E quindi ho usato di tutto, adesso ho fatto arrivare una medicina, speriamo che funzioni, vediamo un po', se non funziona quella soffre cazzo, capito? Cava cava. La gonfia, capito, c'ha la gonfia, poi gli viene mal di stomaco, non riesce a mangiare, poi eccetera eccetera. Quando lo stipendi così, purtroppo devi stare sempre attaccato al bagno, se te la fai, poi quando lo fai ti fa pure anche male, non so l'altro. Sì, già è magra, se lo mangia diventa trasparente. Ah, già stava mangiando, grazie a Dio, quello non ti posso dire niente. Io ho comprato gli integratori, 200 euro ogni mese, so, 20 flacconi. Cava cava. Dai, avanti. Vecchi, vecchi, va bene, dai, io vi lascio che devo scendere giù a entrare a preparare la cena, sennò mi uccidono oggi. Va bene, dai. Vai e fai il bravo ragazzo, il cuoco. Ciao Daniele, stammi bene, fatti sentire. Eia, non c'è problema, dai, se magari se ci siete anche più tardi, tu, vieni, accendi. Va bene, dai, salutoni circolari a tutti e alle prossime, buon proseguo di serata. Ciao. Ciao, ci sentiamo Daniele, un proseguimento anche a te, avanti Pompo. Ciao Daniele, ci sentiamo anche domani. Comprato tre, quello spinotto piuttosto, quello da trattore. No, anche lei, non sono ancora acceso a tratto, devo accendere stasera e invece no, sto facendo altro. Adesso in questi giorni provo a scendere e lo prendo. Tu guarda se ti ricordi per messaggio di nuovo la frequenza che me l'ho già dimenticata. 446081.25. Perfetto, così lo riporto nuovamente. Se poi voi ordinate gli spaghetti, cazzo, sui 446031.75 c'è 140 grammi. E poi su canale 1, no, su canale 2 c'è, come si chiama, il saggista. Allora, comunque era 081.25, così è. E via, 081.25, sì. Lo stavo usando io e Daniele, mi riporta. Si è comprato l'apparecchio, 22 euro, va bello me. Parte la... C'è tutta la frequenza aeronautica, la frequenza marina, prende fino a 520, figurati. Perfetto, va bene, io scappo e ci ascoltiamo alle prossime. Ciao Daniele, alle prossime. Claudio ci sei? Ehi Claudio, se ne è andato. Allora dai, ti saluto anch'io che devo portare giù il cane e ci sentiamo un altro momento, dai. Che devo portare giù il cane, perché stasera sono invitato a cena e devo portarlo prima. Sì, vabbè, non c'è problema, dai. Ok, ora buona cena, buon tutto e buona passeggiata. Ci sentiamo un altro giorno, già. Ogni tanto già l'accendo con l'apparecchio per farlo funzionare. Sia uno, anzi, l'altro ancora è fermo, figurati, se lo metto uno o due in moto, se no incomincia a difettare la loro. Ok, vabbè, alla prossima, ciao. Antonio, se lo consiglio qua la ventola, mettila da un'altra parte perché si sente troppo. È più forte la ventola dell'apparato, quasi quasi. Mettila in qualche altro punto, magari non si sente. Oh, basta mettere, abbassa per appena, guarda, ho abbassato l'autenticazione. E cos'è questo qui? Qualche negozio? No, dove ci sono i picchietti? Dove c'è il saggessare? Bene, bene, Antonio, dai, ci sentiamo, saluta Claudio se rientra e ci sentiamo, dai. Io lo sto chiudendo, ciao. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo, stai bene. Beh, sembrava, ci sei. Ah, c'è cucciolo. Studiato hai. Mi chiamo di computer sul letto. Ah, va bene, ok. E 15.